giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tamponamento in autostrada, l'imponente macchina dei soccorsi dopo l'incidente di ieri sera fra Latisane e San Giorgio, 21 le persone che hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Le testimonianze dei viaggiatori ucraini del pullman che è finito contro il camion frigorifero, il mezzo davanti a noi è uscito all'improvviso, racconta una donna. Incendio fra Medeazze e Sablici, tracce di inneschi ritrovate dagli uomini della forestale, i disagi dei viaggiatori ferroviari e il ritorno dell'incubo sul Carso. Traffico da bollino nero sulle strade delle vacanze tra esodo e ondata di rientri. A Maniago si celebra il coltello, la festa della cittadina e di un artigianato apprezzato in tutto il mondo. Necropoli, il capolavoro di Boris Pahor, diventa a fumetti, si presenta questa sera il volume realizzato da Yuri Devetak. Buona giornata ancora da Giampaolo Mauro e Lara Zani. Partiamo dall'incendio di ieri sul Carso, un'altra emergenza superata, anche se per qualche ora è tornato l'incubo dell'estate 2022, gli incendi sul Carso appunto, con tanto di piromani. Gli uomini della forestale avrebbero trovato alcuni inneschi tra Medeazze e Sablici nei comuni di Duina Urisina e Doberdò, dove ieri le fiamme hanno lambito la linea ferroviaria. I treni sono stati sospesi, ci sono stati disagi per diverse ore per i viaggiatori, poi le operazioni di spegnimento hanno proceduto velocemente. In serata c'è stato il ripristino integrale. Sentiamo. Il giorno dopo l'incendio sul Carso che ha fermato i treni è il momento di fare il punto sulla macchina dei soccorsi. È di nuovo allarme per le fiamme divampate ai margini della sede ferroviaria che sicuramente hanno ricordato a tutti noi gli episodi dell'estate scorsa. La situazione questa volta però è stata subito prontamente messa sotto controllo anche grazie alla lunga opera di prevenzione. La macchina messa in campo dalla prefettura di Trieste in collaborazione con quella di Gorizia e tutte le forze dell'ordine. Prima i vigili del fuoco del comando di Trieste per competenza territoriale, poi anche quelli di Gorizia hanno arginato le fiamme divampate verso le 16 a pochi metri dai binari della ferrovia all'altezza di Medeazza. La circolazione ferroviaria è stata sospesa proprio per permettere ai tecnici del servizio RFI di sostituire i cavi elettrici che sono stati bruciati e anche la centralina elettrica che conteneva dei cavi importanti di fibra ottica. La linea ferroviaria Venezia Mestre è stata interrotta dalle ore 17 alle ore 23:10, il traffico è stato sospeso tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina per l'incendio. Sono stati distribuiti generi di conforto per i viaggiatori nella stazione di Trieste, è stata fatta anche la distribuzione dei generi di conforto a bordo dei treni. In totale sono stati coinvolti dall'incendio 45 treni regionali, di cui 24 parzialmente cancellati e 12 cancellati totalmente con ritardi che hanno abbondantemente superato l'ora. Non è ancora chiaro da dove sia partito l'incendio. RFI fa sapere che posseggono degli strumenti per rilevare in tempo reale l'aumento della temperatura sui freni, ma nessuna avvisaglia è stata data ieri dal sistema tecnologico di RFI, quindi si esclude che il problema possa essere partito dai freni, come spesso sentiamo dire. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. E torniamo sull'incidente di ieri sera, un incidente drammatico ma che avrebbe potuto avere un bilancio ancora più grave rispetto alle 21 persone che hanno avuto bisogno di cure mediche. È una macchina dei soccorsi imponente che ha visto all'opera decine di persone tra vigili del fuoco, sanitari, forze dell'ordine e protezione civile. Il tamponamento tra un pullman e un camion frigorifero ieri sera sulla A4 è stato anche un nuovo banco di prova per il sistema dell'emergenza. C'era poco traffico ieri sera sulla A4 in direzione Trieste alle 19:30 tra Latisane e San Giorgio di Nogaro quando un autobus che trasportava ucraini di ritorno in patria, in gran parte donne e bambini, si è scontrato con un camion frigo con targa polacca. Sembra che il mezzo pesante, uscendo da una piazzola di sosta, si sia immesso nella corsia di marcia all'improvviso, una versione avvalorata dalle testimonianze dei passeggeri. L'autobus ha centrato il camion con la parte anteriore destra. Hanno avuto la peggio proprio coloro che si trovavano lì. Alla fine sono stati portati in ospedale per cure, accertamenti in 21. La più grave, una donna ricoverata in terapia intensiva a Udine e in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I medici specialisti proveranno a evitare l'amputazione dei piedi. Due minorenni sono stati ricoverati, uno al Burlo Garofalo di Trieste e l'altro a Udine. altri sono stati trasportati negli ospedali di Latisana e Palmanova. Alla fine sono ripartiti dal Friuli in 25 all'1:30 di notte, dopo essere stati accolti nel centro di protezione civile di San Giorgio di Nogaro, che ha mobilitato i suoi volontari per fornire assistenza. Hanno dato la mano anche dall'associazione sportiva Canoa San Giorgio, che ha distribuito panini a chi era in attesa di ripartire. Passeggeri che hanno deciso di riprendere subito la marcia verso l'Ucraina, anche se era stato loro messo a disposizione uno spazio della protezione civile a Palmanova per la notte. La SORES, la struttura operativa regionale per l'emergenza sanitaria, ha messo in atto il protocollo Maxi Emergenza per rispondere a un evento che sembrava in un primo momento poter avere conseguenze ben più tragiche. 10 mezzi sanitari mobilitati con 20 dipendenti più operativi rispetto al normale. Extra lavoro anche per la polizia stradale e per Autostrade Alto Adriatico, che hanno facilitato i soccorsi e ridiretto il traffico. Indispensabili vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere le persone incastrate. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora alcune testimonianze degli ucraini che viaggiavano sulla Corriera, raccolte ieri sera da Lillo Montalto Monella sul luogo dell'incidente. Una donna e un giovane che era seduto non lontano dai primi posti, quelli i cui occupanti hanno riportato le conseguenze più gravi. La donna non ha dubbi sulle responsabilità del conducente del mezzo tamponato dal pullman. Cosa è successo? È problema camion, che lui sei stato qua e dopo volevi prendere strada. È normale che questo, pure si posso vedere là, si è fermato là pullman nostro. Ma... che c'è pure striscia. Noi siamo fatto viaggio tranquillamente, 70-80 chilometri, perché pure parla, sei andata, parlato con capo di pullman. Sei tornata a posto e tra 20 minuti hai fatto l'incidente. Vabbè, è importante che sto bene, bimbi tutti. Mi dispiace con queste persone che ho portato. Io stavo dormendo, ho sentito un grande colpo, il tamponamento con un altro veicolo. Io studio medicina di guerra in Ucraina, ma non ho strumenti sanitari. Sono uscito dal bus, ho visto una donna le cui gambe erano ferite in modo gravissimo, tutta insanguinata. Non ero in grado di aiutarla. Ho subito chiamato la polizia. Un'altra persona che si trovava nel bus, seduta dalla parte destra, aveva riportato ferite ad una gamba. Ho cercato di aiutarla. Era seduta dalla parte dove c'è stato lo scontro. Da dove venite? Da Roma. Non so neanche dove siamo. Ci spostiamo sul fronte del traffico, confermate le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, sulla rete della concessionaria i transiti sono molto sostenuti e ai caselli tra esodo e rientri dei vacanzieri è una giornata da bollino nero. Ultimo sabato di agosto, ancora da bollino nero sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia, dove il traffico è intenso anche se scorrevole fin dalla tarda mattinata, sia in ingresso che in uscita per la concomitanza dell'ondata di rientri dei vacanzieri e ancora di tante partenze per le località turistiche. Si registrano code a tratti sulla A23 tra Udine Sud e Palmanova, direttrice abituale per tedeschi e austriaci in partenza per le vacanze di settembre, dove sono 2.700 i veicoli in transito ogni ora. Sulla A4 Trieste-Venezia sono 3.300 i transiti orari, con lunghe file in ingresso e in uscita alla Tisana. Sempre in A4, 2 km di coda in entrata alla barriera dell'Isert, con molti vacanzieri, anche stranieri, di rientro dalla Croazia. Ritorno dalle vacanze? Sì, dalla Croazia. Dove andate? A Milano. Dalla Croazia. Dove siete stati? All'isola di Kirke. Di ritorno dalle vacanze? Sì, da Croazia. Dove andate adesso? In Germania, Düsseldorf. In Croazia. And where are you going now? Back to home, Germany. Non manca però chi è in partenza. Ritorno dalle vacanze? No. Sto ben andando. Ah, dove andate? A Jesolo. Andiamo via adesso. Dove andate? Verso le Marche, quella zona è lì. E chi viaggia per altri motivi? Where are you from? Da dove venite? Dalla Bulgaria. E dove andate? A Milano. Siete di ritorno dalle vacanze? No, sto traslocando perché andrò a studiare lì. Secondo i dati di Autostrade Alto Adriatico, rispetto all'analogo sabato del 2022, i transiti in ingresso, quelli di chi torna dalle vacanze, sono aumentati del 3%, con una punta del 5% all'Isert. Quelli in uscita, di chi si reca in vacanza, sono cresciuti invece del 6%, con un picco del 10% alla Tisana. La società concessionaria prevede più di 180.000 transiti complessivi e flussi molto intensi anche nella giornata di domenica. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, cielo sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 28 gradi e 5 decimi, con mare quasi calmo, con temperatura di 27 gradi e 5 decimi. A Gorizia 31 gradi e 5 decimi, Pordenone 30 gradi e 5 decimi, Udine 30 gradi. A Tolmezzo 27 gradi e 5 decimi, Tarvisio 26 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 25 gradi, Sappada 23 gradi e 5 decimi, Piancavallo 23 gradi. Sul Monte Lussari 21, sul Monte Zoncolan 19 gradi, a Lignano 31, a Grado 30 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 29 gradi. Previsioni dell'ARPA, oggi pomeriggio sulle zone montane cielo poco nuvoloso, possibile qualche locale rovescio o temporale, specie verso il Cadore. Domani su pianure e costa cielo poco nuvoloso e farà ancora caldo nel pomeriggio. Sulla zona montana cielo variabile con progressivo aumento della nuvolosità dal pomeriggio, quando saranno possibili rovesci o temporali. Temporali sparsi, specie a ovest, venti a regime di brezza. Come in tutta Italia, anche in Friuli Venezia Giulia continua a diminuire il numero degli artigiani. Negli ultimi 10 anni sono scesi di 5.273 unità, il 13,2%. Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'INPS, nel 2022 erano 34.764. Non solo, insomma, i giovani sono sempre meno interessati a lavorare in questo settore, ma anche chi ha esercitato la professione per tanti anni e non ha ancora raggiunto l'età anagrafica o maturato gli anni di contribuzione per conseguire la pensione spesso preferisce chiudere la partita IVA e restare nel mercato del lavoro come dipendente. L'analisi è stata condotta dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre. A livello provinciale le variazioni più negative hanno riguardato Udine con il meno 14,3%, Pordenone con il meno 14,9% e in particolar modo Gorizia con il meno 16,8%. Si è salvata solo Trieste che ha subito una contrazione molto contenuta, meno 3,2%. In via di estinzione tantissime attività artigianali come calzolai, corniciai, fabbri, falegnami, fotografi, orologiai, pellettieri, lavasecco, riparatori di elettrodomestici e TV, sarti, tappezzieri. I settori artigiani che stanno vivendo una fase di espansione sono invece quelli delle aree appartenenti al benessere e all'informatica. Nel primo, ad esempio, si continua a registrare un aumento degli acconciatori, degli estetisti e dei tatuatori. Nel secondo sono in espansione i sistemisti, gli addetti al web marketing, i videomaker e gli esperti in social media. Tra le cause del crollo, secondo la CGA, il forte aumento dell'età media, provocato in particolar modo da un insufficiente ricambio generazionale, la feroce concorrenza esercitata dalla grande distribuzione e dal commercio elettronico, il boom del costo degli affitti e delle tasse che hanno spinto molti artigiani a gettare la spugna. Tra i consumatori inoltre hanno prevalso la cultura dell'usa e getta e del prodotto fatto in serie e consegnato a domicilio. Restiamo in tema, è una delle manifestazioni di maggiore richiamo nella seconda metà dell'estate, quella che a Maniago mette in vetrina le attività degli artigiani locali e i loro prodotti apprezzati in tutto il mondo. Si tratta di Coltello in Festa che si è aperta questa mattina. Primo giorno di Coltello in Festa a Maniago, la kermesse internazionale dedicata al mondo delle lame che coinvolge il centro storico della cittadina e non solo per tutto il weekend, oggi e domani. Poco fa si è conclusa la cerimonia ufficiale di inaugurazione della manifestazione con una madrina d'eccezione, la spadista Mara Navarria. Per tutto il giorno un intenso programma di eventi rivolti non solo ai tanti appassionati delle lame ma anche a chi desidera scoprire l'artigianato locale. Attrazioni di spicco sono, come da tradizione, la grande mostra a mercato delle coltellerie maniaghesi, 22 le aziende del territorio aderenti, e la mostra dedicata alle lame d'autore con 18 artigiani custom. Passeggiate e tour guidati alla scoperta delle officine maniaghesi, ovviamente le visite al Museo dell'Arte Fabbrica e delle coltellerie. Tutte le iniziative sono organizzate dall'Associazione Lissaganis con il Museo delle Dolomiti Friulane e dalla Proloco Maniago con il Comune di Maniago. Il comparto conta circa 500 addetti e 50 milioni di fatturato, settore che vanta una storia di 600 anni e che ha la chiave del suo successo internazionale nella tradizione ma anche nella innovazione e tecnologia. Maniago, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora la pagina della cultura. Necropoli, il capolavoro di Boris Pahor, di cui oggi ricorrono i 110 anni dalla nascita, è diventato una graphic novel. Una sfida nella quale si è cimentato l'artista e illustratore Yuri Devetak per l'editore Asterios. L'opera, che racconta l'esperienza di Pahor nei lager nazisti, sarà presentata alle 18.30 al Caffè San Marco di Trieste. Abbiamo chiesto a Devetak perché riproporre dei classici in questa forma e quali sono state le difficoltà con quello che è ormai considerato un caposaldo della letteratura concentrazionaria. Per me comunque è un mezzo che può aiutare anche ai giovani a conoscere la nostra storia anche su quello che è successo sulla nostra terra, anche per approfondire vari problemi che ci sono in tutto il mondo. Quindi con una graphic novel si può anche visualizzare il tutto più specificatamente. Quali sono state, se ci sono state, le difficoltà nel fare questo tipo di lavoro con Necropoli? La difficoltà era proprio questa, di riproporre il tutto in modo visuale, in un campo di concentramento, proprio metterci tutti i sentimenti e come ha vissuto il mondo lo scrittore Boris Pachor, e questo era veramente difficoltoso, insomma. E per di più c'è anche quello di far tutto nel disegno, cioè riproporre tutto il campo di concentramento, di riproporre lo stile e qualcos'altro che è come il sentimento di Boris Pachor, e di mettersi dentro nelle sue scarpe e di vedere con i suoi occhi tutto quello che, insomma, è sopravvissuto a questi orrori. A ricordare Boris Pachor oggi a Trieste sarà anche il Comitato Pace e Solidarietà Danilo Dolci alle 18 in Piazza Oberdan. Il comitato chiede che venga intitolata al grande scrittore l'aiuola al centro della piazza, a poca distanza dall'ex Hotel Balkan, appena restituito alla comunità slovena, spesso al centro delle narrazioni di Pachor. Passiamo agli spettacoli, numerosi gli appuntamenti musicali di rilievo, a cominciare dal concerto dell'Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi a Tarvisio, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo alle 20:30. Musiche di Mozart e di suoi contemporanei attivi anche nella nostra regione. A Mossa, per le serate di Villa Codelli, di scena il pianista Tommaso Boggian, e a Polcenigo, a Palazzo Scolari Salice, concerto a quattro mani di Irene Russo e Matteo Bevilacqua, programma con Ligeti, Debussy e le danze ungheresi di Brahms. Ma molto attesi sono soprattutto i concerti di due cantautori, un nome celebre di grande esperienza e uno emergente che ha fatto delle collaborazioni un tratto distintivo del suo percorso artistico. Il primo è Roberto Vecchioni, che sarà a Lestizza alle 21 in Piazza San Biagio con la sua band per una tappa del tour L'Infinito. L'altro è Carl Brave, al Secolo Carlo Luigi Coraggio, romano di 34 anni, il cui ultimo album, uscito a giugno, si intitola Migrazioni. Sarà a San Vito al Tagliamento l'inizio alle 21. Ora lo sport con il basket. Le regionali di A2 intensificano l'attività. L'APU Udine ha presentato a Tarvisio la guardia statunitense Jason Clark e il centro argentino Marcos Delia, entrambi ex Trieste. Domani dovrebbero essere in campo al Carnera per l'amichevole a porte chiuse contro Oakland University. Intanto primo allenamento a Lignano per Cividale, che ritrova oggi l'argentino Redivo. Trieste giocherà martedì a Monfalcone contro gli austriaci del Kapfenberg. Gianmarco Pozzecco in panchina con il nervosismo del debutto, Stefano Tonut fra i migliori degli azzurri, due triestini protagonisti nella nazionale che è partita con il piede giusto ai mondiali nelle Filippine. La vittoria contro l'Angola ieri nel primo match del girone eliminatorio è stata sudata 81-67 e dopo gli stenti iniziali è arrivata grazie alla forza della squadra, a dirlo lo stesso Tonut, che con 18 punti è stato il miglior marcatore dopo Fontecchio. A Manila una cornice di oltre 21.000 spettatori per la partita dell'Italia, che domani cercherà il bis contro la Repubblica Dominicana, a sua volta vincitrice ieri nel confronto con i padroni di casa. A Fornevoltri proseguono i campionati italiani estivi di biathlon, tutti i nomi più importanti di questa disciplina tra i protagonisti delle gare alla Carnia Arena. La sappadina Lisa Vitozzi, che ieri aveva vinto il titolo nella sprint, questa mattina ha concesso il bis nell'inseguimento. Tricolore anche per il fornese Daniele Cappellari, che ieri ha raggiunto secondo. Sentiamo cosa ha detto poco fa Vitozzi al nostro Lillo Montalto Monella. Ho affrontato queste gare con grande competitività e volevo chiudere un po' la prima parte della preparazione per vedere un po' a che livello ero, e quindi sono contenta di come è andata. Cosa ci dicono queste gare estive poi rispetto alla stagione invernale? Quali sono gli indicatori migliori che si possono trarre da queste gare? Ma alla fine l'estate è sempre relativa, però se hai un buon livello te lo porti poi d'inverno. L'obiettivo è migliorare la stagione dell'anno scorso, che non è così facile, però voglio partire bene subito dall'inizio e cercare di essere più costante possibile durante tutta la stagione. Ovviamente poi la medaglia mondiale, c'ho quella nel mirino. Mi sento molto forte mentalmente per come affronto le cose adesso rispetto a un po' di anni fa, come è giusto che sia. Hai accumulato tanta esperienza e hai preso tante sconfitte e ho dovuto comunque andare avanti, le ho superate bene. Fornia Voltri, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una gara di salto con l'asta nel cortile di Villa Manin è la terza edizione del trofeo organizzato dall'Atletica 2000 e porterà su una pedana straordinaria alcuni atleti di interesse internazionale, tra i quali lo statunitense Oetz, che vanta un personale di 5,62 m, e il giovane azzurro Mattia Beda, 17enne, che pochi giorni fa ha saltato 5,03 m. In campo femminile spicca la vice campionessa europea Under 20, l'azzurra Naci, quest'anno 4,30 m. Comincia alle 15 con le categorie giovanili, i big entreranno in scena alle 20. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Viola Romanese, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12.52, prossima edizione, oggi che è sabato alle 14.30. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.